in primo piano. Giovedì 10 febbraio, l'apertura del Sole 24 Ore sulle super borse all'attacco dei listini e poi anche in prima pagina il piano crescita presentato ieri al Consiglio dei Ministri. Crescita parte solo un mini piano, questo per il Sole. Poi però è lo scontro finale. Così viene proposto dai giornali sulla vicenda Ruby. PM eversivi, farò causa allo Stato, così apre il Corriere. Berlusconi, guerra totale ai PM per Repubblica. Il Premier, farò causa allo Stato, così la Stampa. Il decreto golpe per il Fatto Quotidiano. Ma la pagina più emblematica forse è quella di Libero. C'è una forca, un disegno di una forca con su scritto Procura di Milano, da cui pende impiccato Berlusconi nudo che fa le corna. E il titolo è Guerra Santa. Più chiaro di così nel giornale di Belpietro e Feltre. Vedremo insomma come si profila questo scontro davvero al calor bianco ormai tra procure e Silvio Berlusconi, procura di Milano per la precisione, Silvio Berlusconi. Intanto voglio partire da un'altra segnalazione. Qualche giorno fa era tornato di moda parlare, non ricordo per quale motivo, dei monogruppi nelle regioni, cioè consiglieri regionali che si fanno i gruppi da una persona. So che è una contraddizione in termini, ma oggi la Stampa in prima pagina, sempre quelle notizie che lo so vi mettono di buon umore al mattino, parla di questi conti della politica, sprechi della politica. 30 milioni di euro costa cara la casta dei politici single. E sono single nel senso che sono politici che nelle regioni si fanno i gruppi regionali fatti da una sola persona, i monogruppi. Ne scrive Giuseppe Salvaggiulo. Questo perché un unico consigliere porta stipendi più alti, benefit, rimborsi. In alcune regioni c'è la possibilità per chi è capogruppo di se stesso. È bellissima questa immagine, no? Che uno chiude una stanza e riunisce il proprio gruppo formato da se stesso e basta. E ha la possibilità così di assumere più persone, fino a 7 persone, segretari, portavoce, telefoni, auto, accessori vari, stipendi per i segretari da 1.000 a 3.000 euro, tutto ovviamente spese dello Stato, no? Nelle regioni una casta di single. Per Giuseppe Salvaggiulo sulla Stampa, pagina 11, tutto questo costa 30 milioni di euro. I monogruppi sono diventati da 60, sono saliti a 157 nelle varie regioni, il 38% in più nel giro di pochi anni. E c'è anche un'intervista a Mercedes Bresso, che era capo della regione Piemonte, ora è all'opposizione, ed è capogruppo del gruppo Uniti per Bresso, formato da se stessa. E sentite cosa dice Mercedes Bresso. L'ho fatto perché, non mi nascondo, si trattava di tutelare una serie di persone che avevano lavorato con me nei 5 anni precedenti. Era un problema, gente che viene sbattuta via quando cambia la maggioranza, persone che volevo tutelare dal punto di vista umano, con cui ho un rapporto da tempo, come la storica segretaria che è la mia memoria storica. E allora ho fatto un gruppo unico, così li posso assumere tutti. Questo è il dato di fatto. E poi dice, ma il mio gruppo corrisponde, il mio gruppo corrisponde a una persona che ha preso 1 milione di voti e che non ha diritto a rimborsi elettorali, anche se è quella che ha speso di più in campagna elettorale. Quindi lei sta dicendo che si tratta di soldi pubblici ben spesi? Sì, questa è la risposta di Mercedes Bresso. La sensazione è che, non so se come titola Libero siamo a un livello di guerra santa, questo è il titolo di prima pagina di Libero, ma certo la vicenda Ruby, la richiesta della procura del giudizio immediato per il Presidente del Consiglio, la risposta ieri, l'avete sentita anche nel GR, molto stizzita di Berlusconi che dice farò causa allo Stato. Poi è rispuntata l'ipotesi di un decreto contro le intercettazioni, ne parlerò con Napolitano, ma c'è la nota del Quirinale molto fredda, non risulta alcun incontro. Insomma, l'idea che ci sia davvero una battaglia politica finale alle viste. Sfogo del Premier, è uno schifo eversivo, dovrò fare causa allo Stato. Questo a pagina 3 del Corriere della Sera, ma tutti i notisti di politica, da Francesco Verderami scrive l'offensiva in Parlamento, il capo del governo teme lo schema del 94, parte la chiamata alle armi. E vedete anche sulla Stampa